Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, buongiorno, buongiorno e buon sabato a tutti. Lo sapete che l'Italia ha un'eccellenza manifatturiera anche nel comparto dei treni. La fabbrica dei treni made in Italy si chiama Hitachi Rail ed è frutto dell'acquisizione di Ansaldo Breda da parte dei giapponesi di Hitachi. Oggi abbiamo qui il suo amministratore delegato Maurizio Manfellotto, che ci parlerà di tutto quello che fa la fabbrica dei treni made in Italy, anche se l'azionariato è giapponese, poi vedremo come stanno le cose e di quali sono i progetti avveniristici che ci sono nel settore dei treni. Questo è il motivo per cui vi ho fatto sentire un pezzo della colonna sonora di Assassino sull'Orient Express, non il film che sta arrivando adesso nelle sale con Kenneth Branagh, che è anche il regista, ma il mitico film di Sidney Lumet del 1974 con Albert Finney, Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Sean Connery e Anthony Perkins. Allora, buongiorno dottor Manfellotto. Buongiorno. La fabbrica dei treni made in Italy si chiama Hitachi Rail perché i giapponesi di Hitachi hanno acquisito Ansaldo Breda, di cui lei era l'amministratore delegato, hanno mantenuto l'amministratore delegato, non hanno licenziato nessuno e ne hanno fatto, mi dica lei se dico bene, un importante polo produttivo nell'ambito della loro strategia internazionale, tant'è che voi non solo producete i treni che girano per l'Italia e anche le metropolitane, poi più avanti spiegheremo che siete leader nelle metropolitane senza conducenti, ma anche avete impianti produttivi di Hitachi Rail, che Italia a Miami, in altre parti, e fate ad esempio parti della metropolitana di Miami. Certo, in effetti non è che loro hanno, i giapponesi, trasformato questa azienda. Come ha detto correttamente, il management è rimasto lo stesso. Hitachi Rail ha individuato un'opportunità in una fabbrica che già procedeva con risultati positivi. Quello di cui parleremo oggi e i contratti che sono in corso erano anche precedenti. Ritengo che, ed è anche la loro opinione, che questa sia una grossa opportunità reciproca, ma ci tengo a sottolineare che i risultati che ad oggi questa azienda riesce a percepire e a far percepire e a dare al suo azionista siano frutto di un'attività fatta da italiani, prima ancora che arrivassero i giapponesi. Comunque, i giapponesi di Hitachi sono un colosso da 80 miliardi di euro circa di ricavi e sono una sorta di General Electric giapponese. Sono attivi nell'elettronica, nell'elettrotecnica, nelle macchine per il movimento terra, nelle costruzioni ferroviarie ovviamente, hanno anche una joint con GE Power nei reattori nucleari. Senta, ma partiamo dall'argomento più affascinante, la metropolitana senza conducente, di cui voi siete leader, tra i leader nel mondo, avete il 30% del mercato, e la metropolitana viola che gira per Milano l'avete costruita voi, ce la racconta? Assolutamente sì, non è la prima, credo che sia stata la settima o l'ottava messa in servizio. Questa esperienza è cominciata a Copenaghen all'inizio degli anni 2000, è un nostro fiore all'occhiello, è una metropolitana che credo abbia cambiato anche il modo di operare qui a Milano, non è la sola, la linea 4 sarà uguale alla linea 5, quella che è in costruzione, che quindi renderà efficace il servizio di trasporti, frequente fino ad arrivare a 90 secondi con un 90 secondi di cosa? Di intertempo tra una fermata, tra una metropolitana e l'altra, e quindi sarà sicuramente apprezzata dal pubblico, perché il pubblico desidera sapere quando arriva nella stazione che il treno arriva e che è imminente, così come succede nel resto d'Europa oltre che a Milano. Ma quali sono i vantaggi del fatto di non avere il conducente? Innanzitutto poter gestire in funzione delle esigenze di quel momento la quantità di treni che servono senza avere extra costi. Se alla mattina mi occorrono pochi treni perché, o alla notte perché non c'è necessità, si riducono i treni con un computer al numero necessario. Nelle ore di punta li possiamo mandare senza preavvertimento quanti sono necessari fino al massimo dello sfruttamento. Quindi c'è un vantaggio enorme, considerato anche che gli automatismi arrivano fino a far arrivare il treno nel deposito, ad autolavarsi e a farsi tutta la parte di prevenzione e di manutenzione che occorre per tenere poi alla mattina dopo il treno pronto in esercizio. Quindi è un tassello delle cosiddette smart city o città intelligenti. Assolutamente sì, ed è quello sul quale ovviamente puntano molte municipalità ed è il prodotto di punta che noi stiamo prospettando in tutto il mondo. Peraltro, questo neanche è forse una novità per noi italiani, ne stiamo realizzando una a Honolulu, sempre automatica. La prima metropolitana automatica negli Stati Uniti sarà fatta a Honolulu. Il primo treno è già stato consegnato, è in prova, e quindi quanto prima avremo questa incredibile realtà di una metropolitana che tra l'altro trasporterà i surf. I surf? Perché cosa bisogna fare per trasportare i surf? Bisogna mettere i portasurf. Certamente, e a Honolulu come fai a non avere i surf? Certo, viene spontanea la domanda che sarà venuta in mente anche ai nostri ascoltatori, che metropolitana senza conducente vuol dire meno assunzioni e meno gente che lavora. Assolutamente no, perché la maggior parte delle attività che queste persone fanno, i conducenti, possono essere destinate ad attività forse anche di maggior rilievo, quindi maggiore attenzione alla manutenzione, prevenzione di tutta la parte, diciamo, di controllo del pubblico, e quindi destinare le persone a fare dell'altro. Non è mica detto che gli automatismi portino a una riduzione di persone. Nel mio caso, magari ne parleremo dopo, le nostre fabbriche che sono via via sempre automatizzate, negli ultimi 5 anni hanno aumentato il numero delle loro persone. Il tema del senza conducente è soprattutto un tema di elettronica. Sicuramente sì, e di sicurezza. Quindi la meccanica si fonde con l'elettronica e adesso è tutto meccatronica. La meccanica si fonde con l'elettronica, si parla con l'elettronica, si parla continuamente, il famoso internet delle cose è sempre più necessario, è sempre più un'attività che porterà altre attività alle persone, perché ci saranno delle fasi decisionali che saranno predisposte dal sistema di relazioni tra le parti meccaniche e l'elettronica, che consentiranno di essere efficienti ed efficaci più di quanto non lo siamo adesso. Dunque, Itachi, sentite questa scheda per capire di che cosa stiamo parlando. Poi andiamo in pubblicità e restate con noi. Itachi è una multinazionale giapponese con circa 80 miliardi di euro di giro d'affari. Ha interessi in molteplici settori, tra cui elettronica, elettrotecnica, macchine movimento terra, costruzioni ferroviarie e, insieme a General Electric Power, reattori nucleari. Produce anche climatizzatori, batterie, accessori per la registrazione audio-video col brand Maxell, proiettori, televisori, software, macchine movimento terra, utensili elettrici e molti altri prodotti. È tra i leader mondiali nella progettazione e costruzione completa di treni, dai motori ai vagoni ferroviari, dalle locomotive ai sistemi di manutenzione. Il suo payoff è Inspire the Next. Per il vasto portafoglio di interessi e la presenza globale, potrebbe essere paragonata a General Electric, Siemens, ABB. Itachi è stata fondata nel 1910 dall'ingegnere elettrico Namiei Odaira, nella prefettura di Ibaraki. La prima produzione era costituita da motori elettrici a induzione della potenza di 5 HP. In Italia, Itachi Rail ha comprato da Finmeccanica nel febbraio 2015 Ansaldo Breda, principale società nel settore ferroviario, confermando nella sua posizione l'amministratore delegato Maurizio Manfellotto. Contestualmente ha acquisito il 51% di Ansaldo STS. In breve tempo ne ha fatto un polo produttivo con un raggio d'azione mondiale. Itachi Rail Italia ha un giro d'affari di circa 800 milioni di euro, 2.000 dipendenti e stabilimenti a Pistoia, dove c'è anche la sede legale e gli uffici direzionali, Napoli e Reggio Calabria. A Pistoia avviene la produzione integrata di treni ad alta velocità, a cominciare dal classico ETR 1000, in funzione tra Milano e Roma e su altre tratte importanti. A Napoli c'è la produzione di motori, ma anche di carrelli, oltre che le attività di sviluppo, collaudo e messa in servizio. A Reggio Calabria si fabbricano invece treni regionali e vagoni per metropolitane, fra cui i famosi veicoli senza conducente, nei quali la società vanta una leadership mondiale. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea a parlare di treni e della fabbrica dei treni con Maurizio Manfellotto, che è amministratore delegato di Hitachi Rail Italia. Vi ho fatto ancora sentire un pezzo di Assassinio sull'Oriente Express. Ecco, dottor Manfellotto, ma l'Oriente Express purtroppo non lo fate voi. No, l'Oriente Express è rimasto un terreno di tradizione, credo che ci siano ancora delle iniziative di tipo, come potrei dire, turistico, ma non è ovviamente nel nostro business, non è assolutamente quello che perseguiamo, perché si tratterebbe di un mercato di poco interesse. Ecco, ma come saranno invece i treni del futuro? Beh, innanzitutto li potrete vedere già in Italia, nelle prossime settimane già qualcuno si è visto nelle piazze di Torino e di Bologna. È previsto un sistema nuovo per i treni regionali che entrerà in servizio nel 2019. Si tratta di circa 500 treni, 300. Ecco, il famoso treno rock che vi è stato commissionato, e quindi in Italia la musica sta cambiando, non c'è più quello che molti lamentavano, cioè la concentrazione sull'alta velocità. Tra l'altro gli ETR 100 sono vostri, quelli che girano sulle famose tratte dell'alta velocità, in primis Roma-Milano, ma anche la circolazione locale si sta attrezzando con treni competitivi dal punto di vista tecnologico. Sicuramente con questo piano, che è veramente di grosse dimensioni, un investimento sostanziale importantissimo. Di quanto? È un investimento di circa 3 miliardi e mezzo, dei quali 2,6 sono a carico di Hitachi Rail per la realizzazione di ben 300 treni. 300 treni rock per il traffico locale. Regionale. Il che vuol traffico dire che regionale in quali regioni? Per il momento delle regioni che hanno aderito ci risulta essere la Toscana, il Lazio, il Friuli, il Piemonte, ma ce ne saranno tantissime altre, appunto per riempire, per poter incrementare il servizio sia in termini di efficienza che in termini di comodità e di comfort. Prima ho detto ETR 100, in realtà è l'ETR 1000. Esatto. Ecco, con Manfellotto io volevo arrivare a una cosa molto interessante. La vostra strategia è di cercare di tenere il più possibile le competenze all'interno. I vostri treni sono fatti in Italia e voi puntate non solo a non delocalizzare, ma anche a tenere all'interno tutte le competenze, fra cui la logistica, giusto? Esatto, noi abbiamo negli ultimi anni fatto il contrario di quanto hanno fatto molte aziende, abbiamo internalizzato il più possibile le attività e con questo sistema abbiamo aumentato la qualità, le performance, inclusa l'attività di logistica, che è un supporto fondamentale perché è quello che serve ad integrare, a consentirci di costruire ogni mese almeno due treni tipo TR1000. Ogni mese dai nostri stabilimenti sono usciti due treni TR1000. Ne usciranno dai 6 agli 8 treni regionali, quindi questo è un impegno fondamentale perché l'esigenza è qualità, performance e soprattutto puntualità nelle consegne. Ecco, da questo punto di vista, per mantenere la qualità, visto che la vostra strategia è di gestire tutta la vita del treno, voi puntate molto sul concetto di IoT. Assolutamente sì, IoT e anche partnership con fornitori possibilmente italiani che ci consentono questa qualità, che ci potrà consentire di avere treni che non si fermano mai, e col supporto dell'IoT che darà le informazioni ai tecnici di eventuali guasti che si possono presagire, faremo in modo che questi guasti si riducano al minimo possibile. Cosa vuol dire treni che non si fermano mai? Treni che preannunciano di poter avere un guasto, il che ci consente di poter intervenire prima che esso avvenga. Un esempio banale: se una porta che può bloccarsi per qualche motivo riusciamo a saperlo prima, evitiamo che si possa fermare e quindi possiamo ripararla prima che questo avvenga. Ma il treno del futuro tutti se lo immaginano velocissimo e a levitazione magnetica, o è solo una cosa da film di fantascienza? Per il momento è sicuramente da film di fantascienza, perché i costi di investimento di un'infrastruttura sono assolutamente insostenibili per un paese come il nostro, ma anche altri paesi lo stanno facendo solo in via sperimentale. Però treni veloci e scattanti, perché no? E perché invece li vediamo in Giappone, i treni a levitazione magnetica? Ma ci sono solo delle sperimentazioni di lunghezze limitate, la maggior parte dei treni sono uguali ai nostri. Si chiamano Shinkansen, lasciano un po' il tempo questo nome così aggressivo, ma non abbiamo nulla da invidiare con i nostri ETR 1000. Anzi, i miei colleghi giapponesi, quando vengono in Italia, mi chiedono sempre di fare una tratta da Roma a Milano con il nostro treno. Ah, interessante. E vogliono anche stare nella cabina di guida, la cosa li attrae molto. Beh, immagino, terrerebbe anche a me. Senta, ma tornando invece alla produzione fatta completamente in casa e al fatto che da quando sono arrivati i giapponesi non è variato il numero di dipendenti, voi avete in programma assunzioni? Assolutamente sì, assunzioni sia di livello elevato, ingegneri, tecnici, gente che faccia ricerca per investimenti, ma anche di manodopera di tutti i tipi, perché dobbiamo incrementare la nostra capacità produttiva sia in termini di quantità che in termini di tempi. Certamente. E quindi, se qualcuno volesse mandare il curriculum, dove lo manda? C'è un sito che si chiama Hitachi Rail, sicuramente troveranno gli accessi per essere valutati e considerati nei nostri reciproci interessi. Voi avete sedi, come è stato detto nella scheda, a Napoli, a Pistoia, a Reggio Calabria, a Miami, a Madrid e a San Francisco. Esattamente. Quindi uno si può anche candidare per andare a lavorare a Miami se gli piacesse il bel tempo. Dovrei rispondere why not, certo. A livello internazionale, voi dove state lavorando in giro per il mondo per il gruppo Hitachi? Allora, noi, come ho detto prima, partiamo da Honolulu, mi viene comodo, via via rientrando verso il lato europeo, siamo negli Stati Uniti, siamo in Cile, siamo in Perù e siamo ovviamente in Europa. In particolare molto interessante questa commessa che stiamo realizzando in Italia, progettata dai giapponesi, destinata al mercato inglese. Mercato del regionale inglese, poi continuando con l'Europa, abbiamo già parlato dell'Italia, siamo presenti a Salonicco, siamo presenti a Copenaghen e siamo presenti a Taipei, siamo presenti in Cina, insomma siamo un po' da tutte le parti del mondo. Il diciamo che l'integrazione con la multinazionale giapponese forse vi ha dato la possibilità di avere più mercato. Assolutamente sì, sicuramente c'è più visibilità, ci sono delle opportunità di mercato che prima non perseguivamo, ma che ora ci consentono invece, con il ruolo di design authority che abbiamo assunto, di dare un contributo come italiani e come, diciamo, come azienda esperta di ormai più di 150 anni sui vari settori del mercato, a partire dal tram, a finire alla metropolitana, passando naturalmente attraverso i treni regionali e l'alta velocità. Ecco, ma la fabbrica del treno come funziona? Com'è la fabbrica del treno attuale e anche quella del futuro? Credo che non ci siano, no, le catene di montaggio? No, non sono proprio delle vere e proprie catene di montaggio, esistono sostanzialmente due tipi di fabbrica, ce n'è una in particolare, ne abbiamo una a Napoli che produce tutti i componenti, i carrelli, le ruote, i motori, tutto quello che serve a far muovere il treno, e poi ci sono due fabbriche di assemblaggio dove tutte le altre parti convergono, vengono costruite le casse di carpenteria che contengono tutti i materiali e gli impianti e vengono assemblate tutte le, diciamo, la parte di arredamento, e da questi due stabilimenti, dopo aver effettuato le prove in speciali sale prove con un sistema che si chiama tack time, cioè il treno si sposta dalla sua postazione ogni 5 o 6 giorni per effettuare lavorazioni successive. Mediamente dopo una cinquantina di giorni questo treno esce, va nella sua sala prove, un po' come gli aeroplani, e poi con i propri motori, attraverso i binari che la connettono alle linee ferroviarie, si possono recare nelle destinazioni previste in Italia o attraverso navi o altri mezzi in giro per il mondo. Comunque il vostro caso mi sembra la dimostrazione del fatto che non sempre un'acquisizione significa un trasferimento di capitali e di tecnologie nella casa madre di chi acquisisce, con perdita per il territorio. Dipende da caso a caso, non si può mai generalizzare quello che avviene. Assolutamente d'accordo, e questo è un caso tipico, esattamente opposto a quello che diceva lei. Questa è stata un'acquisizione che ha consentito di rimanere in loco, di aumentare la propria potenzialità e di avere delle reciproche opportunità. Si è anche ipotizzato che con la Brexit il quartier generale di Hitachi in Europa venga spostato da Londra all'Italia. È comparso qualche voce in questo senso sui giornali. Sì, i giornali le parlano frequentemente, ma non è un argomento all'ordine del giorno né in Giappone né in Inghilterra. Sì, anche perché mi risulta che il quartier generale sia 50 persone, non parliamo dell'EMA. Assolutamente no, sono poche persone, quello che più conta invece è probabilmente quello che attualmente rappresenta questa azienda, cioè la Design Authority. Cos'è la Design Authority? È l'autorità che si all'interno del gruppo ha la responsabilità del progetto tecnico per tutto il mondo, ad esclusione di tutti i contratti che invece sono realizzati in Giappone, dove evidentemente la società casa madre è padrona ed è competente e quindi è nelle loro mani questa cosa. Ma per esempio per partecipare a gare che non sono in Giappone, per esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, si fa fronte con la nostra Design Authority che è italiana. Ecco, tra l'altro va segnalato un certo attivismo dei giapponesi di Hitachi in Italia con anche l'acquisizione di un'azienda mitica di Vicenza, la Fiamme Energy Technology della famiglia Dolcetta. Comunque dobbiamo chiudere, ringrazio il dottor Manfellotto, noi ci sentiamo sabato prossimo. Viva le fabbriche, viva i robot, viva l'acciaio, buon sabato a tutti. Grazie.